Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di JJ Telesco. Pomeriggio da GG Telesforo, questo è il soundcheck di Radio 24, puntata numero 109 della nostra prova del suono, che oggi tratta come argomento il rapporto fra musica e salute. Sì, ho letto un bellissimo libro scritto dalla psicologa Rossella Semplici, libro intitolato La cura della salute, pubblicato dalle Edizioni Paoline, e la dottoressa Semplici, psicologa che ha condotto ricerche psicopedagogiche relative all'età dello sviluppo, ma è anche autrice di numerosi articoli su tematiche psicologiche e mediche pubblicati in riviste, siti specialistici e divulgativi, dedica all'interno di questa sua pubblicazione un bellissimo capitolo a arte e musica. E proprio parlando del rapporto fra musica e processi corporei, la dottoressa Semplici ci conferma che la musica produce effetti sul nostro corpo, origina un'esperienza emozionale, coinvolge la mente, arricchisce ed eleva lo spirito, permettendo all'essere umano di cogliersi come unità inscindibile. A cominciare dagli anni 20 sono state effettuate ricerche e studi riguardanti l'effetto della musica sul sistema nervoso autonomo, da cui dipende la funzionalità e l'attività di molti organi e apparati, tra cui la frequenza cardiaca, respiratoria, la sudorazione, l'attività gastrica, la tensione muscolare e la produzione di ormoni. Aggiunge la dottoressa Rossella Semplici che i risultati di molteplici studi concordano su alcuni punti. Innanzitutto le caratteristiche musicali, quali ritmo, dinamicità, estensione melodica, struttura armonica, influenzano in modo diverso i processi corporei e possono accelerare o rallentare il metabolismo, la frequenza respiratoria, abbassare la pressione sanguigna, ridurre o ritardare la fatica fisica e lo stress, abbassare la soglia degli stimoli sensoriali e quindi il dolore, ridurre o incrementare l'immaginazione. E perché no, aggiungo io, farci fare dei bei sogni come quelli di Stevie Nicks, autrice di Dreams, brano proposto da Diane Reeves nel nuovo album Beautiful Life. Questo è il soundcheck di Radio 24, puntata quella di oggi dedicata a musica e salute. They say women, they will come and they will go. stillness of remembering what you had and what you lost and what you had and what you lost. Oh, thunder only happens when it's raining. Dreams, questa composizione scritta ormai diversi anni fa da Stevie Nicks, cantata benissimo, lasciatemelo dire, dalla veterana Diane Reeves, dal nuovo album per la Concord Records intitolato Beautiful Life, presente in questa puntata dedicata a musica e salute. Soundcheck. Il suono della musica. Possiamo che sentirci fisicamente molto meglio dopo aver ascoltato una versione così elegante di After You've Gone, un classico del jazz proposto dal suono di questa bellissima orchestra sinfonica con la tromba elegantissima suonata dal bravissimo Wynton Marsalis qui al Soundcheck di Radio 24 in questa puntata dedicata al rapporto fra la musica e la nostra salute, il nostro benessere. Ce lo ha già confermato la dottoressa Rossella Semplici, psicologa che ha scritto questo libro molto interessante intitolato La cura della salute per le edizioni Paoline, ma ci viene confermato anche da vari scienziati americani, fra i quali il professor Daniel J. Levitin del Dipartimento di Psicologia della McGill University, che insieme al suo team di ricercatori ha condotto una revisione sistematica passando in rassegna ben 400 studi incentrati sulla ricerca in neurochimica della musica. Grazie a questo suo lavoro il professor Levitin è riuscito a dimostrare che suonare e ascoltare musica ha evidenti e significativi benefici per la salute mentale e fisica. A livello fisico, per esempio, la musica è stata trovata a migliorare le funzioni del sistema immunitario con un aumento sia della immunoglobulina A, che è un anticorpo che gioca un ruolo critico nell'immunità, e del numero del delle cellule natural killer, ovvero i linfociti. Ad altri livelli si è scoperto che riduce i livelli di stress e i livelli del cortisolo, che è l'ormone dello stress. Ma non solo, la musica è risultata più efficace nel ridurre l'ansia prima di un intervento chirurgico che non i farmaci, e infine nel promuovere la produzione dell'ormone ossitocina, che è l'ormone dell'amore, della felicità e dell'appagamento. Abbiamo trovato, dice il professor Levitin, abbiamo trovato prove convincenti che gli interventi con la musica possono svolgere un ruolo di assistenza sanitaria in contesti che vanno dalle sale operatorie alle cliniche familiari, ma ancora più importante, siamo stati in grado di documentare i meccanismi neurochimici in quattro ambiti su cui la musica ha un effetto: gestione dello stato d'animo, dello stress, dell'immunità e come aiuto nei legami sociali. Ma viene aggiunto anche un particolare abbastanza importante, che la musica si è dimostrata vincente su più e più fronti, attestandosi a vera e propria forma d'arte benefica piuttosto che un semplice intrattenimento. L'importante però è che si tratti di vera musica, perché in giro di spazzatura ce n'è davvero tanta. Soundcheck, il suono della musica. Prima della pausa, qui al Soundcheck di Radio 24, abbiamo ascoltato nuovamente la splendida composizione scritta dal chitarrista Ulf Wakenius, brano intitolato Momento Magico, e affidato alla splendida voce educatissima di questa giovane cantante coreana che da anni svolge la sua attività con grande successo in Francia, la bravissima Yoon Sanna. E oggi al nostro Soundcheck stiamo parlando del rapporto fra la musica e la nostra salute, e torniamo alla dottoressa Rossella Semplici, a questa bellissima pubblicazione che ha scritto per le edizioni Paoline, un libro intitolato La cura della salute, dove ci racconta quanto sia importante il rapporto fra la musica e i nostri processi corporei. E per quanto riguarda in particolare la relazione maggiormente studiata, cioè musica e battito cardiaco, la dottoressa Semplici ci conferma che si è notato che la frequenza cardiaca aumenta se si ascoltano musiche gioiose e veloci, diminuisce nel caso di brani tristi o lenti. L'attività gastrica invece aumenta con melodie calme e diminuisce con quelle agitate. Un aspetto che dovrebbe essere ulteriormente approfondito è quello relativo all'attivazione dei due emisferi della corteccia cerebrale quando si ascolta, si suona o si crea musica. L'ipotesi maggiormente accreditata è che la musica attivi le funzioni di entrambi, quindi alternando l'utilizzo dei processi cognitivi e intuitivi. Durante l'ascolto sono implicati i processi cognitivi quando ci si concentra analiticamente sul movimento armonico e sullo sviluppo melodico. I processi intuitivi entrano in gioco quando ci si abbandona ai suoni e si attiva il registro delle sensazioni e delle emozioni, come le emozioni che ci regala la voce di Sarah McFarlane in questa sua composizione intitolata Open Heart. Música musica può evocare emozioni diverse ma anche significati diversi, ce lo dice la dottoressa Rossella Semplici da questo bellissimo libro intitolato La cura della salute. La musica è la strada maestra per il viaggio nelle emozioni, negli affetti e nell'immaginazione. Come l'olfatto, il senso più arcaico, è l'unico che permette alla stimolazione esterna di giungere al cervello senza passaggi intermedi, così la musica può arrivare direttamente al cuore e alle profondità dell'inconscio, dove si conservano tracce che sembrano più antiche di noi, di quella umanità che ancora non sapeva scrivere e impacciata cominciava a camminare in posizione eretta. Grazie dottoressa Semplici, spero di incontrarla prestissimo, di continuare la nostra disquisizione sul rapporto fra musica e salute. Intanto io vi lascio in compagnia della musica, delle note, della melodia del pianoforte di Brad Mehldau con il bravissimo Joshua Redman al sax tenore. Il brano si intitola Sky Turning Grey e noi ci risentiamo domani sempre alle 15:20, sempre qui su Radio 24. Il nostro indirizzo di posta elettronica per tutte le informazioni è soundcheck@radio24.it. quindi a tutti voi buona giornata e naturalmente buona musica a tutti da Gegé Telesforo. Check. Il suono della musica.